Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi trovate me in sostituzione di Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 come sempre per i vostri SMS. In apertura parleremo di economia italiana e non solo, nel senso che in una giornata nella quale l'Istat diffonde dei dati che definire positivi è eccessivo, ma naturalmente diciamo non negativi, nel senso che nel terzo trimestre del 2013 il prodotto interno lordo segna una variazione congiunturale nulla, ossia si arresta la caduta del prodotto interno lordo e ci sono dei dati positivi dal lato della produzione industriale. In questa giornata siamo al secondo giorno di proteste in alcune parti d'Italia di un ampio spettro di forze. È stato definita genericamente la protesta dei forconi, perché forse, se volete, anche più semplice per noi dal punto di vista giornalistico definirla così, insomma, cioè, no, fa anche più comodo nei titoli, però in realtà ci sono dentro tante cose all'interno di questa protesta. Si stanno creando problemi su strade, autostrade, ferrovie e non solo. Diciamo che c'è una segnalazione di disagio da parte di un pezzo del paese. Di questo vogliamo parlare insieme al parlare dei dati sull'economia italiana, e lo faremo con Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa. Se volete, naturalmente, potete commentare questa giornata al 349-238-6666. Come sempre, oppure scrivermi su Twitter se volete, Simone Spezia, mi trovate là. Parleremo anche di Alitalia, perché oggi c'è la presentazione del piano industriale ai sindacati alle ore 18. Si prevedono, a quanto pare, 1900 esuberi, 350 milioni di risparmi. Queste le notizie che arrivano. Cercheremo di approfondire e di capire effettivamente che cosa può succedere. Per quanto riguarda invece la finanza, toccheremo il tema del Monte dei Paschi. Secondo la ricostruzione che ha pubblicato oggi il Sole 24 Ore, il presidente del Monte dei Paschi Profumo e l'amministratore delegato Fabrizio Viola sarebbero pronti a rassegnare le dimissioni dagli incarichi se l'assemblea prevista per fine dicembre per il 27 dovesse rinviare l'aumento di capitale da 3 miliardi dall'inizio del 2014 al secondo trimestre dell'anno. Quindi avrebbero posto un out all'assemblea. Vedremo di capire con i colleghi del Sole 24 Ore quanto c'è anche un po' di tattica preassembleare in tutto questo e quante possibilità ci sono invece che l'assemblea rinvii veramente questo aumento di capitale. Ve lo ripeto ancora, 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Oh, non vi ho detto naturalmente come stanno andando i mercati, me ne scuso, eccoli subito. Lieve calo per il FTSE MIB, meno 0,15%, FTSE O'Share meno 0,17%, Parigi in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,6%, l'America negativa meno 0,21% sul Dow Jones, meno 0,08% sul Nasdaq e meno 0,17% sullo Standard & Poor's 500. Naturalmente faremo il punto anche sulle borse come sempre. Le notizie in breve di oggi. Le materie prime, come sempre, l'oro a 1263 dollari l'oncia, il rialzo del 2,3%, in rialzo anche il prezzo del petrolio, almeno per quanto riguarda il WTI, quello quotato a New York, con consegna a gennaio più 0,62% a 97,94 dollari al barile. Brent meno 0,62 a 108,71. Notizie interessanti in arrivo dagli Stati Uniti. Il tesoro ha detto addio definitivamente a General Motors. È libera dal governo. Il tesoro ha venduto tutte le restanti azioni nella casa automobilistica americana. Stando a quanto dichiara appunto il tesoro americano, dice di aver recuperato 39 miliardi di dollari dall'investimento, ha perso 10 miliardi e mezzo. La casa automobilistica si appresterebbe, secondo indiscrezioni, a nominare il primo amministratore delegato donna nell'industria automobilistica, Mary Barra, che dovrebbe sostituire Dan Akerson. Ci sono poi le dichiarazioni di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. L'Europa sembra ad una svolta, progressi sono stati fatti nell'affrontare le grandi sfide, dice. C'è un palpabile senso dell'ottimismo, dice Lagarde, se lo vede lei, beata lei. Ma la crisi non può essere veramente finita quando il 12% è senza lavoro, dice, va peggio per i giovani, i tassi di crescita sono molto più bassi di quello che dovrebbero essere. Ne sappiamo qualcosa. Completare tutti gli elementi dell'unione bancaria, aggiunge, resta una priorità. E oggi ci sono anche le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. È fondamentale completare l'agenda delle riforme a livello europeo e nazionale. In questa agenda non c'è spazio per un ritorno al nazionalismo e protezionismo. E ancora, i maxi finanziamenti alle banche, i programmi di acquisto dei titoli di Stato messi in campo dalla BCE non rappresentano un'uscita dal suo mandato, insomma quello che fa riferimento alla stabilità dei prezzi, ma piuttosto l'opposto. Poi dice Draghi, in realtà è una frase che ripete spesso, la Banca Centrale Europea, come tutte le banche centrali, non deve cercare di fare quello che non può. E una di queste cose è compensare la mancanza di riforme strutturali da parte dei governi o riparare il sistema bancario. Poi si sofferma sull'esame che scatterà per le banche, la creazione dell'unione bancaria e l'esame sulle banche sono passi essenziali nel migliorare la governance del settore finanziario dell'area euro. Oggi tra l'altro c'è l'Ecofin sulla famosa unione bancaria, dice Jörg Asmussen, membro tedesco del board, non mi aspetto un accordo finale oggi all'Ecofin, ma penso ad un altro Ecofin prima del summit europeo. Nel frattempo, aggiunge, servono paracadute finanziarie nazionali. Diversa la posizione di Moscovici o Moscovici, il ministro francese, che dice abbiamo compiuto progressi, ci sono elementi per un accordo politico, ma c'è ancora spazio per negoziazioni. Cosa sta facendo il governo spagnolo? Oh, questo ci interessa molto. Ci interessa molto perché il governo di Mariano Rajoy sta elaborando una nuova riforma fiscale che tenderà tra l'altro ad abbassare le aliquote maggiori dell'equivalente dell'IRPEF, ossia dell'IRPEF spagnola, in modo da stimolare la domanda interna e l'attività economica. Abbiamo i dati sullo spread che oggi è calato tra BTP e Bund a 222 punti base, si era avvicinato ai minimi da luglio del 2001 e poi è risalito lievemente. E poi oggi c'è stato un convegno importante sul sistema fiscale. Parla il ministro dell'economia Saccomanni, dice il sistema fiscale non deve essere un ostacolo alla crescita. Parla di evasione, dice l'evasione sinergica alla corruzione, all'illegalità e alla criminalità organizzata che pregiudicano il buon funzionamento dell'economia, impediscono il riscatto sociale della nuova generazione e compromettono le prospettive di sviluppo delle fasce più svantaggiate. Parla anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Ci state scrivendo già degli sms prima ancora che di sentire che cosa ha da dire. Dice Befera, c'è bisogno di dire una parola forte e certa, di affermare che l'elusione ed evasione fiscale non sono compatibili con la nostra economia e con nessun sistema veramente democratico. Parla di 130 miliardi di evasione, che è la stima della Corte dei Conti. E poi dice la lotta all'evasione va fatta anche per equità sociale. L'ammontare delle tasse evase nel nostro paese viene stimato dalla Corte dei Conti in circa 130 miliardi, nonostante gli sforzi compiuti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza negli ultimi anni. Visto l'ordine di grandezza, il rafforzamento della lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale è non solo una questione di entrate, ma anche di equità sociale. Infatti il fenomeno complessivo dell'economia sommersa ha ricadute pesantissime sul sistema economico e sociale del Paese. Queste ricadute si manifestano sia direttamente sul versante delle entrate erariali, oltre che falsando la normale e corretta concorrenza tra le imprese, sia indirettamente sul versante delle prestazioni sociali. La mancata dichiarazione dei redditi conseguiti determina un accesso indebito a quelle prestazioni sociali a cui in gran parte si accede sulla base delle dichiarazioni ISEE, generando iniquità e perpetuando aree di privilegio che non sono compatibili in un paese civile e democratico. Qualche sms che ci arriva sulla questione della protesta dei Forconi, poi sentiremo qualche voce su tutto questo. Ci scrive Nicola, nella protesta ci sono un sacco di categorie e la frase unica per tutti è troppe tasse. C'è anche chi dice non è disagio ma disperazione di tutto il paese. Dice non è l'unico, ho fatto 20 minuti di coda a Pordenone, è stato pure fortunato. Ma perché devo subire anche io che a quei signori non ho fatto niente? Queste manifestazioni non portano a nulla. Tutto questo, quello che ci scrivete al 349-238-6666 e non solo. Una giornata quindi tra quella che forse non possiamo effettivamente definire ripresa economica, perché l'Istat ha certificato solamente che si è arrestata la caduta del PIL nel terzo trimestre del 2013 e che cresce la produzione industriale dello 0,5% su mese in ottobre rispetto a settembre. Su base annua invece in calo per la 26esima volta. Di questi due elementi vogliamo parlare col professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a lei. E anzi, bentornato ai nostri microfoni, perché insomma non è certo la prima volta che la ospitiamo. Allora, io vorrei iniziare a farvi sentire una voce. Io so che questa voce farà arrabbiare chi è in piazza o chi solidarizza con la protesta. Però, sinceramente, in questi giorni abbiamo cercato di capire cosa ci fosse dietro e soprattutto quale fosse la proposta dietro una protesta rabbiosa, anche in parte giustificata. Però, insomma, ci vuole anche una parte di costruzione in una protesta, no? Però, dalle domande che abbiamo fatto, non abbiamo ricevuto grandi risposte, in realtà. Questo si chiama Chiavegato, Stato fa parte dell'IFE, Liberi Imprenditori Federalisti Europei, viene dal Veneto ed è una delle anime della protesta. È intervenuto questa mattina ad Effetto Giorno, dunque sentiamolo. Ma noi chiediamo cose molto semplici e democratiche di uno Stato che dovrebbe essere democratico. Intanto chiediamo che tutta la classe politica e burocrate di questo Stato qua, che ha gestito e sicuramente ha dato prova di incapacità della gestione pubblica, si dimetta e vada a casa. E dopo chiediamo dei processi anche per le persone che hanno rubato, che hanno sottratto denaro pubblico, che sono inquisite. Chiavegato, e una volta che questa classe politica se n'è andata a casa, che succede? Allora, questa è la classica domanda di pensare al dopo e liquidare il presente. Io ripeto, abbiamo un problema qui imminente, che è quello di salvaguardare il nostro presente, le nostre aziende e il futuro dei nostri figli. Noi in questo momento qua dobbiamo alzare la testa per dire basta, per dire veramente non possiamo più sopportare di prendere lezioni di vita da questi incapaci e corrotti. Allora, professor De Aglio, ha sentito, no? Ho sentito. Che cosa dice? Che non è un discorso politico, cioè è uno sfogo. In realtà non c'è nessun programma, quindi una protesta, e lo dice anche l'obiettivo, cioè mandare a casa, e poi cosa resta, ma non ce ne importa, basta che vadano a casa, insomma. Questo sfascia tutto. Questo sfascia tutto. Cominciando a sfasciare esattamente quelle aziende lì, noti bene, che poi non hanno garanzie sindacali e quindi si presentano molto più deboli di quello che si potrebbe altrimenti pensare. Lei dice sfascia tutto, però è lo specchio comunque di qualcosa che attraversa il paese in qualche modo, insomma, no? Sì. Assolutamente sì, e difatti di questo bisogna prendere atto, bisogna capire come li si può aiutare, ma non li si aiuta facendo questi programmi qui, ma andando a vedere che cosa si può fare perché queste imprese non muoiano, perché abbiano i finanziamenti adeguati e altre cose del genere. Qui abbiamo una protesta che è focalizzata in due categorie, che sono da un lato i commercianti e dall'altro gli agricoltori, commercianti intendendo il piccolo commercio. Allora bisogna capire se è possibile fare qualcosa, forse molto più sul piano diciamo della burocrazia che non esattamente su quello fiscale, che in questo momento è difficile da toccare, però mettendo anche avanti delle proposte da attivare nei prossimi mesi, man mano che se l'economia veramente riparte qualche soldino ci sarà, per sostenere questi settori. Dopodiché bisogna anche essere molto chiari su una cosa: non si tornerà più ai livelli di prima della crisi, nel senso di organizzazione. Il negozietto che stava su con due persone, in molte situazioni, non dico in tutte le situazioni, ma in molte situazioni è un ricordo del passato. Quindi se anche vogliamo avere il piccolo commercio, dovrà essere un piccolo commercio un po' più grande, magari un'azienda che si articola su due o tre negozi o cose di questo tipo, che quindi ha delle economie di acquisto. Le casistiche sono naturalmente molte in questo senso. Ecco, andando in quella direzione si potrà fare qualche cosa. Tenendo presente che corrotti o non corrotti io non lo so, ma comunque la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, e quindi non c'è nessuna formula che ci faccia, non dico tornare al punto di prima come era e dove era, perché non sarà così, ma non c'è nessuna formula che ci faccia uscire dalle difficoltà in pochi mesi o anche in pochi trimestri. Eccoci di nuovo, 349-238-6666, un grazie sentito all'ascoltatore che mi augura di perdere il lavoro, la pensione, la casa e di mangiare ortaggi contaminati. Questo per aver chiesto a uno dei leader della protesta di Forconi se ha qual è la parte propositiva di tutto ciò. Bene, poi si fa per dire, Alcuni dicono questa protesta non risolve nulla, l'unica protesta civile è non pagare una tassa, decidiamo quale e tutti uniti. Un altro, abbassare l'IVA di 5 punti e vedete come riparte l'economia. Sono tutte idee, professor De Aglio, eccoci di nuovo, che hanno tutte l'aria da ultima occasione. Lei cita le parole di Matteo Renzi l'altro giorno, no? Sì, però queste non sono delle occasioni, questi sono, come dire, dei disegni di bambini delle prime elementari. Noi dobbiamo avere un disegno tecnico davanti. Con questo non si va da nessuna parte. Riduciamo l'IVA di 5 punti, il deficit pubblico schizza all'infinito, lo spread va in maniera folle, dopodiché i nostri BOT e BTP non valgono più niente. Non è così che si esce dalle crisi. Se fosse così semplice, forse qualcuno di quei signori lì che sono corrotti l'avrebbero anche trovata la soluzione. Le economie moderne sono un pochino più complicate. Allora, che cosa dobbiamo fare secondo lei, professore? Io le chiedo molto semplicemente questo, nel senso che siamo qua, come abbiamo visto, abbiamo questo dato sul prodotto interno lordo che, insomma, non possiamo dire, cioè, anche se tecnicamente è un'uscita dalla recessione, insomma, non possiamo dire che sia proprio stravolgente, ecco, no? Una variazione. In realtà è un'uscita lentissima di un malato grave che è stato in coma fino all'altro giorno e di cui francamente non sappiamo se si salverà, ma si può fare il possibile, aperto gli occhi, respira, quindi vediamo di andare avanti su questa strada. Se facciamo come dicono quei signori è come se lo volessimo far scendere subito dal letto, poi stramazza. Lei che cosa farebbe adesso, professore? Ma noi abbiamo un vincolo, che ci piaccia o non ci piaccia, che è l'euro. Può essere buono o cattivo, non è qui il caso di discutere. Siamo dentro, abbiamo una serie di regole, se non seguiamo le regole il mercato internazionale ci distrugge davvero come paese, ciascuno andrà poi per conto suo, chissà cosa succede. Quindi noi dobbiamo attenerci ai limiti che abbiamo concordato noi e coi quali siamo abbastanza dentro, e le nostre capacità di azione sono entro questi limiti. Si può fare, come dico, non si fa in settimane, trimestri, cose del genere, ma si può cominciare a vedere qualche segno già da quasi subito. La strada è quella noiosa, che è stata detta tante volte, bisogna tagliare la spesa pubblica, ma non si può fare troppo in fretta, se no giustamente ci sono famiglie, dipendenti, eccetera, eccetera, ma bisogna cominciare con questa strada da una parte, lotta all'evasione dall'altra. Con questo e con soldi europei che dovrebbero arrivare, se stiamo sotto il limite ce li danno, allora tutto questo lo mettiamo nelle varie cose che fanno crescere l'economia, meno tasse, stimolo a progetti che possono creare sviluppo e occupazione e poi via dicendo su queste strade. Naturalmente non si può banalizzare una politica in 3 minuti, bisognerebbe avere 3 ore, una lavagna e altre cose, e si vedrebbe che questa è una strada da fare. Il malato reagisce alle cure debolmente, ma reagisce, dobbiamo fare in modo che questa reazione alle cure migliori ancora, e davanti con alcuni trimestri faremo quello che abbiamo perso in 5 anni. Tra l'altro lei parlava recentemente nel rapporto che annualmente cura, che è il 18° rapporto sull'economia globale, l'Italia, realizzato dal centro di ricerca Luigi Einaudi, appunto sotto la sua direzione, che la ripresa è soffocata internamente dalla burocrazia e dalle riforme non fatte, quindi c'è naturalmente anche questo elemento. Io però la volevo portare su un altro punto. Tra l'altro il titolo del rapporto di quest'anno è Fili d'erba, fili di ripresa. C'è una questione interessante, secondo me, che arriva oggi, ma è un tema che ci si pone spesso, e dell'euro parlava lei poco fa, in realtà come sistema, io ne vorrei parlare anche come valuta. I segnali di ripresa che abbiamo visto dipendono, lo abbiamo raccontato molte volte anche da questi microfoni, dipendono molto anche dalle nostre imprese esportatrici. Ora, noi abbiamo un problema oggettivo che è una valuta molto forte. Oggi siamo arrivati a toccare livelli vicini ai massimi da 2 anni con il dollaro e ai massimi da 5 anni sullo yen giapponese. È difficile pensare che in questa situazione, con un mercato interno desertificato, professore, che questi fili di ripresa germoglino pienamente. In teoria sì, in pratica proprio oggi, tra le varie notizie che sono venute fuori, il sondaggio sugli ordini dall'estero mostra un aumento quasi senza precedenti in questi ultimi anni. Quindi in effetti che cosa è successo? Che noi stiamo cominciando a esportare all'estero le cose che sappiamo fare meglio. Quindi non andiamo a fare concorrenza alle magliette cinesi, ma forse ai pullover francesi. Allora, quando si fanno queste cose di qualità, con un pubblico mondiale che ormai è di centinaia di milioni di persone che apprezzano la qualità e hanno i soldi per comprarla, qualche cosa otteniamo. E difatti, se andiamo a vedere che cosa esportiamo, troviamo prodotti del Made in Italy, l'agricoltura che va incoraggiata a cambiare in questo senso, a produrre la qualità, i cinesi stanno scomparendo il vino, e avanti di questo passo. Forse non è il paese che preferirei, vorrei un po' più di prodotti tecnologicamente molto avanzati, però anche qui in molti rami della meccanica la ripresa c'è, perché certi tipi di macchinari li facciamo solo noi e il mondo emergente li compra molto volentieri, e non è un cambio dell'euro che perde il 2-3%, che aumenta il 2-3% il prezzo, quello che poi li fa cambiare idea, perché la merce è buona. Quindi questa è la strada da percorrere. Se noi facciamo questo ne veniamo fuori, altrimenti io ho i miei dubbi. La ringrazio, grazie al professor Mario De Aglio per essere stato con noi e per averci dato appunto un filo di speranza. Docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Buona giornata, buonasera, grazie, anzi buona professore. Giornata. Buonasera. Allora, noi tra poco vi voglio far sentire qualche altra voce da questa giornata. Sono le voci del presidente di Confindustria e di due sindacalisti, Bonanni e Angeletti, sempre sul tema di questa protesta. Tra l'altro, allora, non sono Barisoni, non ho dato il criminale a Barnard e non me la prendo con i forconi, sono Spezia, non ho dato il criminale a Barnard appunto e non me la sono presa con i forconi, lo dico a chi scrive via sms al 349-238-6666, ho semplicemente detto che è una protesta dettata dalla rabbia di cui la parte di costruzione al momento non si vede. Vi farò sentire queste voci, ma tra poco, perché è interessante anche la lettura a chi ne dà, che ne dà chi tradizionalmente ha un ruolo di rappresentanza, come per esempio i sindacalisti, ma prima vogliamo parlare di finanza e di Monte dei Paschi. Bene, anche a chi mi scrive su Twitter, pulire bene gli occhiali per vedere meglio la ripresa, va bene, li pulirò, insomma, però i dati e l'Istat di oggi non ci consentono di festeggiare. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, parliamo di Monte dei Paschi con te. La domanda che abbiamo posto all'inizio, che ci siamo posti all'inizio, la ricostruzione di oggi sul Sole 24 Ore ci dice che il presidente del Monte dei Paschi, Profumo, e l'amministratore delegato Viola sarebbero pronti a dimettersi dagli incarichi se l'assemblea, che è il 27 di dicembre, dovesse rinviare l'aumento di capitale. Pretattica, Marco. Sì, probabile, pretattica, è una vigilia molto calda anche a Siena, non solo sulle strade, nelle piazze dove ci sono i forconi. A Siena la Banca Montepaschi rimane comunque il punto di riferimento. Il 27 dicembre si vota il via libera oppure no, oppure, come si è appreso nei giorni scorsi, lo slittamento di qualche mese, un aumento di capitale che di fatto cambierà il volto della banca, perché si tratta di mettere sul mercato 3 miliardi, oggi MPS capitalizza meno di 2 miliardi in borsa, quindi questo dà l'idea di quanto sia destinato a cambiare il volto della banca. E abbiamo da un lato la fondazione, ha in mano il 33%, vale poco anche perché il titolo sta crollando, però questo 33% deve metterlo a sua volta sul mercato per ripagare i suoi debiti, 350 milioni. Dall'altro abbiamo la banca, che invece ha tutto l'interesse a chiudere il prima possibile l'aumento di capitale, sperando di beneficiare del clima comunque positivo che c'è sul mercato. Quindi evidentemente pretattica da una parte e dall'altra. ultima domanda rapida, quasi più un commento che ti chiedo, Marco Ferrando, su Monte dei Paschi, perché tra l'altro è arrivata un'altra notizia interessante che arriva da Indesit e ne parleremo tra un minuto e mezzo, però riguarda... La questione è sempre quella, al centro c'è sempre la fondazione, che va bene, il primo azionista, però abbiamo passato dei mesi a dire che il problema era esattamente questo, e però al centro c'è la fondazione. Lo snodo di questa questione continua ad essere la fondazione. Lo è stato prima e lo è adesso, che la fondazione deve decidere come e quando uscire di scena, di fatto, perché la fondazione, diciamo prima, è in mano ancora un grosso pacchetto, deve venderlo, vuole più tempo e quindi per questo sta facendo molta pressione perché si allunghino i tempi dell'aumento di capitale, sperando di uscire a prezzi migliori. Quindi insomma sempre là stiamo. Sì, dovrebbe essere l'ultima puntata di fatto, perché la nuova Montepaschi inevitabilmente non avrà più la fondazione, perlomeno con questo peso. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per essere stato con noi, e lo lasciamo al suo lavoro. Grazie Marco, buonasera. Grazie a voi. Adesso la notizia che è arrivata da poco è la notizia che riguarda Indesit. È una vicenda che abbiamo già toccato in Focus Economia. È stato approvato, ha riferito in questo caso la FIM Marche, che è il sindacato metalmeccanici della CISL, che è stata approvata con il 79,3% di sì l'ipotesi di accordo sul piano di ristrutturazione dell'azienda. Allora saluto Marco Milani, che ne è l'amministratore delegato, buonasera. Buonasera a voi. E grazie per aver accolto l'invito volante a partecipare alla trasmissione. Dunque, immagino la soddisfazione ci sia, no? Ma intanto mi scuso per il collegamento, sono in treno, sto andando a Fabriano, quindi se sentite i rumori è il viaggio. Prego. La soddisfazione c'è tutta sicuramente. Per noi era importante che l'accordo venisse approvato e che venisse approvato con larga maggioranza in tutti gli stabilimenti. E così è stato. Era importante tutti gli stabilimenti perché è importante che le nostre persone abbiano capito che il piano è sì sicuramente importante per l'azienda, ma che mira anche a salvaguardare in tutti i modi, in tutti gli aspetti, le nostre persone. Quindi Milani ci sta dicendo, perché noi abbiamo ancora notizie piuttosto scarse in realtà da quello che ci arriva dalle agenzie, ci sta dicendo che l'accordo è arrivato il sì a larga maggioranza in tutti gli stabilimenti, insomma, non ce n'era. In tutti i siti dell'azienda in Italia, credo con un minimo, con una percentuale variabile dal 65 al 90%, per cui credo con una media che sfiora l'80%, quindi larga, altissima maggioranza. Siamo molto contenti, quindi ora c'è da lavorare tutti insieme, spero che potremo lavorare con tutte le sigle sindacali, ci sono gli investimenti che partono, stamattina sentivo il presidente di Confindustria Spinzi che diceva che in un momento come questo ad investire in Italia ci vuole coraggio, beh credo che noi il coraggio in questo momento ce lo stiamo mettendo tutti, quindi abbiamo voglia di lavorare. A questo punto la FIOM dovrà firmare, Milani, no? Dovrà firmare, una parola forte. Spero che firmeranno, mi sembra che così abbiano detto e noi siamo veramente contenti, siamo a bordo anche la FIOM e partecipano anche loro a quello che abbiamo da fare nei prossimi anni. Ci ricorda i punti principali del piano? I punti principali del piano sono che spostiamo dall'Italia le lavabiancherie economiche che produciamo a Caserta e che non sono producibili per motivi di competitività in Italia. E quindi se non le spostassimo condanneremmo lo stabilimento di Caserta a una chiusura nei prossimi anni. E poi ribilanciamo le produzioni italiane portando il piano di cottura d'incasso a Caserta da Fabriano e riportiamo in Italia produzione di più alto di gamma, quindi riportiamo forni frigoriferi, forni compatti da altre nazioni per focalizzare le produzioni italiane su prodotti a più alto di gamma e principalmente nel segmento dell'incasso, che è un segmento un po' più ricco, diciamo, rispetto sicuramente ai prodotti economici. Per poter attuare questo, quello che faremo ricorso agli ammortizzatori sociali e quindi andremo ad avere un periodo, ovviamente ci devono essere ancora gli accordi operativi da fare con il Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare con quello col Ministero del Lavoro, per avere un tempo in maniera tale da gestire con i contratti di solidarietà questo periodo transitorio. Nel frattempo utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per effettuare i prepensionamenti e anche, questo ce lo auguriamo fortemente, che con gli investimenti che facciamo, che con un po' di ripresa di mercato, possiamo riassorbire un numero significativo di persone, sia come impiegati, ci siamo impegnati a riassorbirli tutti, sia ovviamente negli stabilimenti con gli operai. Grazie Milani per essere stato con noi, appunto per aver accolto l'invito con così stretto preavviso. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. È il momento della borsa. E poi dopo, quando sentiremo qualche altra voce su questa protesta dei forconi, leggerò anche qualche altro sms che sta arrivando su questo tema e sulle parole che abbiamo sentito dal professor De Aglio. Intanto saluto Livia Zancaner di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Buonasera. Come stai? Bene, grazie, tutto a posto. Milano? Allora, oggi Milano ha chiuso in calo dello 0,27%, è tornata quindi l'incertezza in Europa dopo il rialzo della vigilia, ma bisogna ricordare che la scorsa settimana il nostro listino ha accusato una perdita del 4,7%, oggi hanno chiuso in calo tutte le borse europee, la peggiore è stata Parigi che ha perso circa l'1%, diciamo che l'incertezza è legata sempre alle mosse future della Federal Reserve, quindi della Banca Centrale Americana, che secondo gli analisti nella riunione della prossima settimana, ovvero del 18 dicembre, potrebbe già annunciare la tempistica sulla riduzione di acquisti di asset, quindi diciamo che l'attenzione degli investitori a dicembre, quindi verso la fine dell'anno, è tutta orientata sulle mosse della Banca Centrale Americana. Ricordiamo comunque che l'anno si avvia a chiudere in positivo per i listini, guardiamo solo il FTSE MIB, dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 12%. Titolo peggiore oggi Tenaris, meno 2,4%. Sì, Tenaris è stato il titolo peggiore sul FTSE MIB, vi sono gli analisti che iniziano a guardare i numeri del prossimo anno, numeri che potrebbero essere penalizzati da volumi piuttosto modesti, portando a un margine operativo lordo su base annua piuttosto modesto. Inoltre, nonostante il prezzo nelle ultime settimane delle azioni Tenaris sia sceso, secondo gli esperti il titolo comunque scambia a multipli piuttosto impegnativi, quasi al picco dei multipli storici, ed è per questo che probabilmente qualcuno sta prendendo profitto sul titolo. Questo per quanto riguarda Tenaris, negativa anche Tozzo oggi, meno 0,9%. Sì, Tozzo è stata negativa, se guardiamo il settore del lusso, anche Luxottica e Ferragamo hanno chiuso in calo di oltre l'1%, l'attesa è tutta per il debutto di Moncler lunedì, ma ricordiamo anche che per quanto riguarda Tozzo, oggi alcuni analisti hanno abbassato le indicazioni di prezzo sulle azioni in seguito alla riduzione delle stime per il 2013-2014, quindi probabilmente è stato anche qua lo spunto per vendere, quindi un po' di azioni tozze. Molti messaggi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, molti messaggi al 349-238-6666 sulla protesta dei cosiddetti forconi. Chi mi scrive: alla povera gente disperata che non arriva a fine mese, bisogna solo dare soluzioni, il loro lavoro non è fare proposte, la protesta dei forconi è composta da gente disperata, probabilmente. Altri scrivono: già la politica ci fa vivere da cani, adesso sono arrivati i forconi che limitano la nostra libertà, vogliono il caos e la guerra civile, sono dei maledetti. E chi ci segnala, in realtà qualche notizia è arrivata su questo fronte, che alcuni negozianti a Torino sono stati costretti a chiudere per minacce. Questo è quello che hanno riferito le associazioni di settore, in particolare la CNA. Eravamo sui mercati, però eccoci di nuovo con Livia Zancaner, ti abbiamo fatto un po' attendere, però veniamo ai titoli positivi adesso, Telecom innanzitutto. Sì, allora la Telecom ha chiuso in positivo, ha guadagnato il 2,7%. Oggi l'amministratore delegato della società, Marco Patuano, ha ribadito ancora la strategicità dell'asset brasiliano e ha dichiarato che l'ipotesi di un eventuale spezzatino di TIM Brasil non è allo studio del Consiglio di Amministrazione. In realtà alcuni analisti sottolineano che uno spezzatino, quindi un break up di TIM Brasil, porterebbe più benefici a Telecom Italia rispetto che gli eventuali compratori, e vedono un possibile upside, quindi rialzo per il titolo Telecom, di quasi il 60%. Molto bene ST Microelectronics, più 3,6%. Sì, ST si è mossa oggi in controtendenza rispetto al comparto dei tecnologici, che in Europa ha perso circa l'1%. Ieri il titolo aveva fatto male nel giorno dello stacco della cedola, quindi oggi, diciamo così, ha recuperato le perdite, mentre il settore oggi è stato penalizzato dal taglio delle stime sul quarto trimestre da parte di Texas Instrument, che è uno dei principali produttori al mondo di semiconduttori. Così ST Microelectronics. Monte dei Paschi, ne abbiamo parlato prima dal punto di vista delle notizie, non dal punto di vista del mercato. Sì, il titolo oggi ha guadagnato lo 0,94% dopo il più 5% segnato ieri, quindi oltre alle notizie di cui avrete parlato voi, quindi in relazione al possibile posticipo dell'aumento di capitale chiesto dalla fondazione, oggi bisogna ricordare che il comparto bancario in Italia si è mosso molto bene, a parte Intesa che ha chiuso sulla parità, Unicredit che ha chiuso in calo, con uno spread che ha perso terreno e ha chiuso a Piazza Affari intorno ai 223 punti base contro i circa 230 della chiusura di ieri. Infine Ansaldo. Sì, Ansaldo STS ha chiuso in positivo, ha guadagnato lo 0,50%, i riflettori sono sempre catalizzati, quindi focalizzati sul titolo in attesa di notizie su una possibile cessione, quindi su novità sulla cessione e anche sul nuovo amministratore delegato e probabile presidente della compagnia, che secondo le indiscrezioni circolate oggi dovrebbe essere Stefano Siragusa, che è partner di Boston Consulting Group, ovvero consulente di Finmeccanica proprio per la cessione della società. Grazie Livia Zancaner di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Io vi do anche lo stato del cambio tra euro e dollaro a 1,37,66. Adesso vogliamo tornare a sentire qualche voce su questa protesta di oggi e di questi giorni, che non si sa tra l'altro per quanto andrà avanti, le cosiddette, così vengono definite, parti sociali. Iniziamo dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, sulle mobilitazioni di queste ore. È chiaro che in una situazione di grande disagio in tutte le componenti sociali del paese c'è una forte tendenza a fare proteste, forme di protesta, e quella dei forconi è una di queste. Così Squinzi, che sottolinea il disagio. Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Ma da una parte bisogna utilizzare come sempre il dialogo e il confronto, perché non è sostituibile il confronto, e quindi le amministrazioni pubbliche, le istituzioni devono confrontarsi con loro. Dall'altra parte però i forconi non possono arrivare alla violenza. Un movimento di interessi di lavoratori, di cittadini appunto, che hanno interessi da far valere, non devono mai ricorrere alla violenza. Questo è un fatto che nega lo stesso compromesso, lo stesso accordo. Chiunque ha dei problemi o raggiunge un compromesso, ma chi arriva alla violenza rischia di non fare un compromesso, di fare solo violenza. E poi naturalmente bisogna capire che cosa si intende per violenza, perché insomma subiscono come una violenza molti nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo il fatto di rimanere bloccati in coda appunto per una protesta, e ci dicono ma la polizia, i carabinieri che fanno? Luigi Angeletti, segretario generale della UIL. Penso che purtroppo il paese è già profondamente diviso, non si deve più usare il gerundio, si deve usare il presente. Quindi vuol dire una cosa molto semplice, che una crisi economica come questa, gestita solo con l'idea che bisogna accettare le indicazioni che vengono dall'Europa senza pensare alle condizioni delle persone, non può che generare la frantumazione del paese. Cioè, il paese è già frantumato, non è che si sta frantumando. Semplice. E il governo ovviamente sta lì e usa il verbi al futuro. Faremo. Speriamo che il nuovo segretario del PD comincia a usare i verbi all'indicativo. Facciamo adesso. Un altro saluto caro dopo quello all'ascoltatore che prima mi augurava di perdere il lavoro, di trovarmi in fila alla Caritas e chissà cos'altro. All'altro ascoltatore, adesso lo recupero, che ci dice: travolgeremo anche voi giornalisti servi dello Stato massonico mafioso. Chissà che cos'è. 349-238-6666, magari leggiamo qualche altro sms dopo. Intanto sentiamo cosa succede su strade e autostrade, appunto, coinvolte anche da questa protesta. Strade in diretta. Buonasera, iniziamo col segnalare 4 km di coda sulla diramazione Gallarate Gattico come conseguenza di un veicolo che aveva preso fuoco tra Sesto Calende e Besnate verso Milano a 8. Resta chiusa la 5 Torino-Courmayeur per un grave incidente tra San Giorgio Canavese e Volpiano verso Torino. Code per un veicolo in panne sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. In direzione Roma, code sulla diramazione Roma Nord da Sette Bagni al raccordo anulare per lavori. Code che proseguono poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare sino al bivio per la A24. Sul resto della rete il traffico è intenso intorno alle grandi città, attenzione anche alla nebbia in alcuni tratti molto fitta sui tratti di pianura al nord, ma i disagi sono più che altro in viabilità ordinaria dove prosegue ad oltranza la manifestazione Fermiamo l'Italia. Alle porte di Torino la situazione è più grave, sono chiuse la 4, la diramazione per Pinerolo e la tangenziale sud. Blocchi poi allo svincolo di Santena, corso Giulio Cesare e Carmagnola sulla 6 Torino-Savona. Presidi anche sulla 32 Torino-Bardonecchia da Vigliana, sulla 16 Napoli Canosa Cerignola Ovest e sulla 14 Adriatica Canosa e Andria. Altri blocchi sulla 27 Venezia Belluno, Conegliano Veneto e Treviso Sud, sulla 13 Bologna Padova a Padova zona industriale, chiusa poi la tangenziale sud di Vicenza verso Verona. Blocchi anche sulla 4 a Montecchio, Vicenza Ovest e Porto Gruaro, sull'Autosole Presidi e Caselli di Orte, Ceprano, Frosinone, Modena e Parma, a Milano blocchi in piazzale Loreto e per entrare in tangenziale allo svincolo di Ro della Fiera con inevitabili ripercussioni in tutta la zona. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Finalmente anche fuori casa le stesse attenzioni alimentari che ci si riserva a casa. Airest è presente con i suoi format di ristorazione in aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade e da sempre si distingue per la ricerca continua di ingredienti di qualità, perché convinta che uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta siano indispensabili per il benessere psicofisico. Per questo, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, ha pensato a menu dedicati che invitino a prendersi cura della propria salute senza rinunciare al piacere. Presso i punti Ristop, Rustichelli e Mangione, L'Orto, Brico Caffè e Culto si potranno gustare tutti i prodotti e menu segnalati dal bollino consigliato da Fondazione Umberto Veronesi. Airest e Fondazione Umberto Veronesi, insieme per la salute. Focus Economia. Chi invia soluzioni, chi mi scrive come Antonio e dice: abbiamo capito che ti va bene lo stato attuale delle cose, ma caro Antonio, facciamo continuamente trasmissioni nelle quali ci occupiamo esattamente del fatto che le cose non vanno bene, a partire dalla pressione fiscale sulla quale si concentra tanta parte delle proteste di queste ore, figuriamoci. Altri dicono, ci raccontano storie. Allora, innanzitutto altri ascoltatori in coda che dicono: Se sto in coda per i forconi mi va bene. Quindi adesione alla protesta. Altri, ci scrive un ascoltatore, a Barletta, Trani, Corato, vanno in giro a minacciare i negozianti perché tengano chiuse le serrande. Questa è violenza. Quindi semplicemente attenzione, perché quando una protesta è destrutturata come questa, si rischia che chiunque ci metta il cappello, o meglio si metta sotto quel cappello, e poi decida di farci un po' quello che vuole. E qua non si tratta di dar lezioni su come si fanno le manifestazioni, come mi scrive qualcuno. Si tratta semplicemente di prendere atto di questo. Insomma, tu organizzi una protesta di questo tipo, è destrutturata. In questo tipo di protesta ci entra chiunque e qualsiasi cosa. Tant'è vero che le adesioni sono arrivate da tutte le parti, compresa Forza Nuova, Casa Pound, c'è un po' di tutto dentro, ecco. Una manifestazione di protesta contro i guasti della politica? Beh, parliamo di un caso che è un eminente guasto della politica. Almeno nelle sue origini, all'Italia. Celestina Dominelli del Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Ciao, buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Allora, è iniziato tutto da una ventina di minuti, è già iniziato o non è iniziata la presentazione ai sindacati del piano? Sta iniziando in questi minuti, i sindacati sono stati convocati alle 18 dall'amministratore delegato Gabriele Del Torchio, e ricordiamo appunto ai radioascoltatori che è la prima volta che i sindacati conoscono direttamente dall'estensore i contenuti di questo piano industriale che si annuncia lacrime e sangue. Finora ne hanno letto, insomma, dai giornali, ma non sono mai stati chiamati a conoscere, diciamo, qual è la strategia su cui l'azienda intende impostare il futuro per, diciamo, provare a non finire, come dire, nel peggiore dei modi possibili. Celestina, cosa prevede al momento il piano da quello che sappiamo? Allora, guarda, i rumors delle ultime ore sostanzialmente confermano quello che il nostro giornale aveva già scritto nelle scorse settimane, e cioè che c'è un livello di esuberi piuttosto significativo. Si parla di 1.900-2.000 esuberi, che sono in qualche modo la conseguenza del fatto che ci sarà insomma una messa a terra di una ventina di aerei tra, insomma, medio e lungo raggio, e poi una serie di risparmi, di taglio dei costi che dovrebbe aggirarsi nell'ordine di 350 milioni. Si parla di intervenire per la prima volta dentro questa azienda anche sulle retribuzioni dei dirigenti, il livello e diciamo 40.000 euro lordi, quindi si cominceranno a intaccare una serie di benefit, diciamo, di situazioni che finora non sono mai state interessate da una stretta, con un obiettivo di arrivare a un risparmio che viene stimato nell'ordine del 20-25%, sperando che sia ovviamente sufficiente, insomma, a garantire la sopravvivenza di questa azienda che, ricordiamolo, sta cercando ovviamente un partner, perché insomma è necessario un alleato forte che investa, insomma, nel futuro, nella strategia di Alitalia. Qualche dato, sempre per ricordarlo agli ascoltatori che in realtà li sanno, perché da questi microfoni li abbiamo ripetuti molte volte: tra il 2009 e il 2012 la Nuova Alitalia ha perso circa 1 miliardo di euro, e si può stimare in circa 5 miliardi di euro tra mancati guadagni, accollamento dei debiti, costi di ristrutturazione, cassa integrazione. In parte alcuni ci mettono anche il monopolio della tratta Milano-Roma. In circa 5 miliardi di euro il costo per la collettività della mancata vendita d'Air France, bloccata nel 2008 dal governo di Silvio Berlusconi. E poi, Celestina, c'è il fronte dell'aumento di capitale, no? Esatto, c'è questo aumento da 300 milioni che la società ha deliberato nelle scorse settimane, e considerando sostanzialmente quanto dovranno mettere gli azionisti e poi, insomma, un uguale sforzo da parte delle banche, che però, come dire, è sufficiente per assicurare, diciamo, qualche altro mese di galleggiamento all'azienda. L'azienda ha bisogno ovviamente di investimenti molto più consistenti, che non possono che venire da un alleato che si sta cercando in queste ore, in questi giorni, con una certa frenesia, insomma, visto che, lo ricordiamo, Air France, che era appunto il partner internazionale di Alitalia, ha deciso di non aderire all'aumento di capitale da 300 milioni che è stato deciso, insomma, nelle settimane scorse. Al momento quali sono le posizioni dei sindacati? I sindacati hanno cominciato a parlare già ieri, insomma comunque negli ultimi giorni, sulla base appunto delle voci, delle indiscrezioni pubblicate dai giornali, e sono ovviamente molto, insomma sono sul piede di guerra, perché sostanzialmente non sono disponibili ad accettare un piano che, così come è venuto fuori fino a questo momento, si annuncia di soli tagli. Vogliono, chiedono una forte discontinuità a livello del management, una forte correzione di rotta, un piano che assicuri anche il rilancio della compagnia e non si limiti soltanto, come è sembrato fino ad ora, a tagliare organici, insomma, e stipendi particolarmente onerosi. Questo il quadro dunque, quindi vedremo che cosa succederà durante questa presentazione del piano. Naturalmente, Celestina, immagino che si preveda una durata piuttosto lunga di questa presentazione, di questa trattativa. Ti tocca far tardi stasera? Sì, mi tocca far tardi, insomma, speriamo, diciamo, che l'incontro non vada molto per lungo. Io ritengo che sia un incontro interlocutorio, ovviamente i sindacati hanno già lasciato capire quale sarà, appunto, come dire, il loro atteggiamento rispetto ai contenuti che sono venuti fuori, quindi è molto probabile che oggi si vedano, insomma, per così fissare un po' di paletti, e forse poi chiederanno di, diciamo, un nuovo incontro, un nuovo confronto con i vertici dell'azienda, insomma, nelle prossime settimane, anche perché poi bisognerà vedere come finirà questo aumento di capitale. Grazie Celestina Dominelli del Sole 24 Ore, buonasera. Grazie, arrivederci. Molte segnalazioni da varie parti d'Italia ancora naturalmente sulla protesta di oggi. Chi ci scrive: guardate qua dove mi trovo io, sono quattro gatti e bloccano l'autostrada. Altri dicono: ma insomma, parlate di violenza, ma le tasse non sono una violenza? Allora, le tasse in sé evidentemente non sono una violenza. Diciamo che, a leggere anche qualche sms che è arrivato prima, quando abbiamo fatto sentire la voce di Attilio Befera che parlava di evasione e diceva 130 miliardi di evasione sono una minaccia alla democrazia, più che le tasse in sé stesse sono, è quanto sono elevate e le modalità di riscossione. Antonia, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, non è che siamo asserviti al bieco potere, Qua semplicemente si sta ragionando su una protesta che sta attraversando l'Italia, che sta creando problemi a molti, anche, come dire, c'è gente disperata in strada, c'è gente meno disperata in strada, e poi c'è gente che rimane bloccata nelle sue attività quotidiane e che magari non aderisce alla protesta, punto. Stiamo semplicemente rappresentando la realtà. Un ringraziamento a Paolo Corleone in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi e Alessandro Jacopini in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani con Effetto Giorno alle 13:00.